Sundance ha dei tanti meriti, non ultimo aver lanciato dei film importanti come Sex, Lies and Videotapes e Reservoir Dogs, cioè Le Iene di Tarantino. Tuttavia parte su una filosofia che io contesto fino in fondo, l'esaltazione del cinema indipendente. Io credo che il cinema sia sempre dipendente da qualcosa o da qualcuno e quindi è una filosofia, secondo me, fallimentare alla radice. Certo, promuove un cinema a basso budget, ma questo non significa che sia meno dipendente. Ecco, vediamo alcuni dei film che ci danno un po' il polso di dove l'America sperimentale, diciamo, visto che poi fanno film a basso budget, si sta muovendo e quindi prende un po' il polso del paese. E, per esempio, Anita. Anita è la storia un po' dell'emancipazione razziale delle donne nere, perché è la storia delle famose audizioni al Senato quando Clarence Thomas, candidato da Reagan alla Corte Suprema, improvvisamente fu messo sotto accusa da questa donna e poi alla fine Clarence Thomas fu approvato ed è oggi uno dei giudici della Corte Suprema. E dunque, qual è il polso? Abbiamo appena inaugurato per il secondo mandato un presidente nero. Ecco, ci sono forse dei problemi all'interno degli afroamericani nei rapporti fra uomini e donne? Hai fatto benissimo a sottolineare il parallelo con il presidente Obama appena rieletto. Pochi giorni fa il New York Times ha fatto un editoriale interessante sul cinema di Obama. Esiste un cinema di Obama? Forse questa è una forzatura, ma è vero che c'è una convergenza di temi. Penso uno per tutti a Lincoln, no? Un'attenzione alla tragedia, all'orrore, all'abominio della schiavitù e alla grandezza di un presidente come Lincoln che è riuscito con una guerra violentissima ad eliminarla. Ovviamente non paragono questo al film su Anita che ancora non ho visto, però è certo che anche qui ci sta un piccolo grande dramma, una donna che viene molestata e che ha il coraggio di denunciare un uomo tra i più potenti che esistono in America. Qual è la curiosità? Che entrambi sono persone di colore, sia la molestata sia colui che commette l'abuso. Quindi è vero al discorso a livello generale che esiste un'attenzione sui temi che questa presidenza ha portato, questa presidenza non solo per quello che dice ma per quello che è simbolicamente un uomo bello e colto e grande oratore come Obama, e nello stesso tempo c'è un'attenzione sempre più generale verso temi che un tempo sarebbero state impraticabili o